Ciao a tutti gli ascoltatori di Big World che in questo momento sono disponibili a ascoltare e a confrontarsi con dei pensieri che offro. La linea generale del nostro argomento è mescolare acqua e vino, che come si è detto non si riferisce a un fenomeno fisico, ma indica che quando si riesce a mescolare qualcosa, dei pensieri, delle energie, del lavoro, delle forze in genere, si produce quasi sempre un risultato dove si nota chiaramente una situazione migliorativa rispetto a quella di ciascuna delle forze che si è utilizzato. Quindi mescolare acqua e vino, chi di noi si ricorda dell'acquarello? L'acquarello era un prodotto della cantina, un prodotto povero che però piaceva moltissimo. Era la vinaccia che avanzava dopo aver fatto il vino mescolata con dell'acqua e fatta fermentare, si produceva l'anidride carbonica, la vinaccia rilasciava ancora quelli che erano i succhi avanzati del vino e veniva l'acquarello gradevolissimo durante l'estate. Allora, mescolare due cose o più cose, se ben fatto, sicuramente porta dei vantaggi. Ad esempio, mescolare, no? Pensate a un ruscello che nasce nell'alta montagna. Viene giù quest'acqua, si dice purissima, gradevole. Perché gradevole? Perché non è come l'acqua distillata che si usa nel ferro da stiro. Avete mai provato a assaggiare l'acqua distillata? Non sa di niente, proprio si rifiuta perché non sa di niente. L'acqua del ruscello invece in genere è buona, gradevole, dissetante. Perché? Perché mescolata con quell'acqua che originariamente era come l'acqua distillata, mescolata con quell'acqua ci sono dei sali, delle sostanze minerali che in quantità giusta gli donano quella gradevolezza che noi tutti si sperimenta quando si dice quell'acqua minerale in bottiglia mi piace molto di più di quell'altra. Quindi vuol dire che quest'acqua, che apparentemente viene da una sorgente che non è inquinata, che non è sciupata, non è sempre uguale, ma a seconda delle mescolanze che c'ha all'interno quest'acqua è più o meno gradevole. Poi pensate a un altro fatto importante, come anche la legge italiana e forse quella di tanti paesi vietano la consanguineità nella generazione della prole, quindi che non ci si può sposare tra fratelli e sorelle, eccetera eccetera. Perché? Perché la società ovviamente è fatta da chi c'è e da chi nascerà. Se chi nascerà, cioè la prole, avrà dei grossi problemi per la consanguineità dei genitori, la società avrà dei grossi problemi. Quindi chi fa la politica non lo dice a caso che non ci deve essere consanguineità tra i coniugi oppure tra chi genera, ma lo dice perché vede un rischio forte quando non si mescola. Mentre si sa che ci sono dei risultati eccellenti quando si mescolano anche razze che hanno la pelle di colore diverso. Quindi, per ritornare al nostro discorso iniziale, mescolare acqua e vino significa ottenere un prodotto migliore di quelli iniziali e quindi bisogna andare avanti con questa idea di mescolare. Pensiamo pure a un'altra cosa, alla scienza. La scienza cosa fa? Prende tante informazioni che vengono da sperimentazioni, da ipotesi, da ragionamenti, le mette insieme e è lì che fa un passo avanti. La disgraziata invenzione della bomba atomica non sarebbe mai avvenuta se alcune persone specialiste nella fisica, nella chimica, nel nucleare, non si fossero messi insieme per sintetizzare i loro saperi riuniti. Quindi anche nell'attività scientifica, come per fare una medicina, per esempio, la cosa è analoga, anche nell'attività scientifica mescolare è fondamentale perché è fonte di miglioramento, quindi la nostra tendenza è sicuramente un miglioramento. Vi voglio parlare di un argomento che è curioso, delle api, no? Si sente dire di tutto delle api, e io vi voglio parlare delle api per illustrarvi come nella vita organizzata di questo insetto c'è la collaborazione, la mescolanza, e che le api sono tali da migliaia e migliaia di anni perché c'è questa mescolanza che mantiene ruoli ben distinti, ma che è mescolanza d'azione all'interno. Per esempio, le api non sono, passatemi il termine, animali individuali. È come i nostri globuli rossi, non sono cellule individuali. Le api e i globuli rossi fanno parte di un grande sistema. I nostri globuli rossi di corpo umano. Le api fanno parte dell'alveare. Allora, quando un'ape ci punge, lei muore. Non tutte le volte che l'ape punge muore, ma quando punge un essere umano muore per motivi tecnici. È un comportamento uguale, identico a quello del globulo bianco del corpo umano, che quando si porta sulla zona dove c'è la ferita e dove sorge il sangue, si coagula, muore e salva il corpo umano. Quindi negli insiemi c'è sempre una prevalenza di interessi, che è quella dell'insieme, e c'è sempre una collaborazione di tutte le parti dell'insieme per mantenere questo. Allora, ritorniamo alle api. Come tutti sapete, nella famiglia delle api, nell'organismo delle api, c'è l'ape regina. L'ape regina è un'ape che vive circa 3 o 4 anni rispetto ai 45 giorni che vive un'ape operaia, quindi ha delle caratteristiche eccezionali. Perché ha queste caratteristiche? Perché è lei che garantisce la continuità di quel sistema, cioè è lei che una volta fertilizzata continuamente mette nelle celle adeguate delle piccole uova che poi crescono e diventano api adulte. Se la regina muore, la famiglia muore. Allora le api sono molto accurate nel nutrire la regina. La regina da sé non fa niente se non deporre le uova, la pulizia, il nutrimento, l'acqua. Gli vengono fornite continuamente da una schiera di api che ha intorno e che sono le sue nutrici. Questo non significa che la regina ha una personalità particolarmente importante, ma significa che tutte le api di quell'alveare, di quella organizzazione sanno che la loro vita è legata alla vita della regina. A modo di informazione, la regina nasce dopo un periodo di incubazione più lungo delle altre api. Dopo qualche giorno che è nata fa il volo di fecondazione, cioè sono cose bellissime queste qui. Va in un luogo dove ci sono i maschi che la feconderanno. Poi non si sa bene se sarà un maschio solo più che la feconderanno. Viene fecondata, ritorna nella sua famiglia e lì per un periodo abbastanza lungo fa crescere, fa nascere altre api. Quindi è importante questo mescolare i servizi fatti alla regina con il benessere della famiglia. Un particolare: una famiglia di api nel periodo primavera-estate, che è il periodo in cui ha un numero maggiore di componenti, può arrivare a 90-100.000 api, che sono tutte femmine e che nel loro ciclo vitale hanno sempre un periodo in cui vanno a raccogliere il polline e il nettare. Però è indispensabile che ci siano anche i maschi, perché, se detto, la regina viene fecondata dai maschi. Allora, quando ci sono circa 100.000 api in una famiglia, nascono circa 1.000 maschi, quindi proprio insignificanti. 1.000 maschi che però sono indispensabili, come la regina, per il mantenimento della specie. E come si diceva prima che la consanguineità è un aspetto negativo, cioè non mescolare è negativo, anche nelle api si verifica questo qui, perché la regina non viene fecondata dai maschi nati da lei, ma viene fecondata da altri maschi che lei incontra in maniera opportuna, come la sua razza, la natura gli ha messo come esigenza di vita. Quello che avviene dentro a una famiglia di api è una cosa eccellente. Pensate soltanto alle famose celle esagonali, no? La regina nella cella depone l'uovo, nasce l'ape. Nell'altra cella un'altra ape depone il nettare elaborato e viene il miele. In un'altra cella ancora viene conservato il polline che serve per nutrire le larve e altro. Allora, queste celle esagonali sono così perché non rimane nessuno spazio vuoto tra una cella e l'altra. Quindi le api, per avere le loro casette, lavorano il meno possibile e ottengono il massimo, perché una cella esagonale è abbastanza spaziosa, molto più di una cella quadrata, per esempio, e anche un pochino meno di una cella cilindrica. Però se la cella fosse cilindrica, tra una cella e un'altra ci rimarrebbe il vuoto. Quindi le api lavorerebbero per non fare la cosa migliore. Quindi le celle esagonali che sono dentro all'alveare sono un capolavoro di ingegneria che tutte le api sanno fare e che tutte contribuiscono a costruire durante il periodo della loro vita. L'alveare produce anche una sostanza, cioè importa, non produce, una sostanza che si chiama propoli, e la va a prendere sulle gemme di alcune piante. Questa sostanza è il disinfettante assoluto di tutto l'alveare. Quando c'è microorganismi oppure anche animali più grandi che vengono uccisi e che poi non sarebbe possibile portare fuori dell'alveare, le api lo ricoprono di propoli e questa sostanza disinfettante che noi si conosce per esempio per il mal di gola che uccide germi, no? Questa sostanza disinfettante che loro hanno raccolto sapendo di voler raccogliere quella lì garantisce la salubrità nel loro ambiente di vita. Il propolio poi serve alle api anche per tante cose, ma ora non mi voglio dilungare più a lungo. Però vi voglio dire un'altra cosa importante delle api che collaborano tra sé. Dentro all'arnia, l'arnia sarebbe il contenitore dove gli umani allevano le api, dentro all'arnia c'è una temperatura quasi costante, sia d'inverno che d'estate. Come fanno le api? Le api hanno le ali. Le api sono capaci di raccogliere acqua e di portarla dentro alla loro arnia. Allora, noi tutti sappiamo che se facciamo evaporare dell'acqua si produce temperatura più bassa e le api d'estate fanno evaporare l'acqua muovendo le ali all'interno dell'alveare e d'inverno invece di far evaporare acqua muovono l'aria che muovendosi si riscalda e garantisce la temperatura necessaria. Insomma, si vive in un mondo dove ci sono tantissime cose che ci danno delle lezioni continue di vita se noi le guardiamo. Bisogna ricordarsi che le api ci sono da tantissimi secoli e andranno avanti per tantissimi secoli. Perché? Perché sono una società ben organizzata dove si mescola i saperi e il fare e quindi credo si può concludere questa chiacchierata dicendo che mescolare è il sistema indispensabile per andare verso l'eternità. Vi saluto e alla prossima puntata se volete. Se siete interessati contattate la radio per eventuali allargamenti dell'argomento oppure ditemi le vostre critiche. Di nuovo ciao Pasquale.